9 in punto. La politica nel tunnel. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano e dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori e benvenuti a 9 in punto. Dunque, forse siamo alla fine, tra poco potremo togliere la voce di Angelo che ci ricorda questo gioco di figurine, perché come sapete sabato è stato eletto Presidente della Repubblica di nuovo Giorgio Napolitano, che tra l'altro probabilmente non aveva nessuna voglia, a dire il vero. È stato eletto il nuovo Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e entro breve, probabilmente entro mercoledì, ci sarà l'incarico per la formazione di un nuovo governo. I nomi che girano sono sempre quelli che avete sentito anche nel fine settimana, dei quali vi ha parlato poco fa anche Alessandro Milan. Si parla di Giuliano Amato, si parla di Enrico Letta, si parla comunque di un governo politico e non tecnico, ma forse qualche elemento tecnico inevitabilmente ci sarà. Il tutto in una situazione di grande confusione, soprattutto sotto il cielo del Partito Democratico. Per commentare l'800240024, voglio sentire che cosa ne pensate di tutto questo. C'è anche la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/9in.radio24, oppure potete scrivere a me su Twitter, Simone Spezia. Saluto innanzitutto Nico Stumpo, deputato del Partito Democratico, responsabile organizzazione del PD. Stumpo, no? Non mi sbaglio, vero? Sì, responsabile organizzazione, dimesso, diciamo, con tutta la segreteria. Quindi io nella vita ho sempre fatto quello che bisogna fare con i ruoli che si ha. Oggi sono deputato del PD e credo ancora per poche ore si farà la direzione. Continuerò a dare il mio contributo fino alla direzione, poi farò quello che si deciderà dopo la direzione. Che cosa si aspetta? C'è Rosi Bindi che dice, no, Enrico Letta premier, lo stimo tantissimo, però Enrico Letta premier no. Voi che cosa farete? Che idea ha? Qualsiasi cosa dica Napolitano va bene a questo punto, immagino. Ma, guardi, io parto da un principio. Sono abituato a non partire dicendo dei no. Innanzitutto siamo andati tutti da Napolitano, abbiamo chiesto a Napolitano di stare ancora 7 anni al Quirinale, la situazione che si è creata, e che adesso si fa difficoltà a partire dai no. Bisogna avere la forza, il coraggio di verificare le proposte, di assumersene le responsabilità naturalmente, ma non partendo in modo preconcetto verso qualsiasi no. È chiaro che non c'è neanche un preconcetto qualsiasi sia, lo dico, c'è bisogno di fare una cosa equilibrata, c'è bisogno, in queste giornate si è parlato di governi a bassa intensità politica. Io quello che credo, che il prossimo governo deve essere ad altissima intensità di collegamento con il Parlamento, che tutti i parlamentari che dovranno assumersi la responsabilità, e non è facile, io sono uno di quelli che non ha ceduto ai tweet, ma capisco che in questa nostra società moderna ci sono anche rappresentanti istituzionali, dovrebbero avere le spalle un po' più larghe, che hanno ceduto ai tweet. Dobbiamo mettere tutti nelle condizioni di non avere un sovraccarico e di avere quindi un pieno legame tra le scelte che questo governo farà e i rappresentanti istituzionali in Parlamento. Sinceramente, Stumpo, qualche perplessità su questo ragionamento del cedere ai tweet, nel senso che sinceramente sono convinto che i tweet o i commenti su Facebook si siano, o le mail, si siano innestati in realtà su una perplessità politica più profonda, perché se no, mi scusi, questi numeri che abbiamo visto, soprattutto su Marini, perché si è parlato molto del ruolo dei social network e della mobilitazione su Marini, ma anche su Prodi, se no non si spiegherebbe, scusi, no? Ma non l'ho detto io, so di molti colleghi che hanno risposto sui social network, dove io diciamo passo non tantissimo tempo e soprattutto leggo piuttosto che partecipare, hanno scritto loro che sui social network, diciamo, di essere in linea con quello che era l'ondata che prevaleva. Io quello che penso è che naturalmente sia stata una fase di discussione che andava approfondita, ma che la prima volta, cioè rispetto alla vicenda di Marini, sia stato molto un fatto emotivo, cioè come se dopo aver detto che la Presidenza della Repubblica doveva essere un fatto condiviso tra tutti, al primo impatto alcuni hanno avuto un senso di sbandamento. Ecco, è stato, io reputo sbagliato questo come atteggiamento, ma detto questo ora bisogna superare anche queste difficoltà, andare avanti. Abbiamo la certezza di oggi alle 17 il Presidente eletto verrà a riferire, a giurare alle Camere e dirà quello che lui immagina bisognerà fare nelle prossime settimane. Voglio partire da qui perché quando succedono queste cose è bene guardare in avanti e non fermarsi a guardare le macerie indietro. Raffaele Fitto, PDL, buongiorno. Buongiorno a voi. Che cosa fate voi? Direte sì a tutto, qualsiasi proposta arrivi da Napolitano? Un governo con Enrico Letta alla guida vi potrebbe andar bene? Preferite Amato? Ma guardi, intanto ascoltiamo le parole del Presidente della Repubblica, che nel pomeriggio indicherà anche l'ambito entro il quale ritiene si debba muovere. Noi abbiamo avuto da sempre un atteggiamento molto chiaro, abbiamo sempre detto dal giorno dopo le elezioni che per quanto ci riguarda l'esigenza di dare al Paese un governo forte e stabile nonostante il risultato elettorale era da noi condivisa. Abbiamo da subito ribadito questa disponibilità, abbiamo immaginato un governo che mettesse insieme dei numeri ampi, non perché si voglia, al di là delle modalità con le quali lo si definisce, fare un governo di larghe intese o di come lo si voglia chiamare. C'è un'esigenza per il Paese, questa esigenza ha bisogno di un governo che si assuma in pieno la sua responsabilità, tanto sul fronte delle scelte di carattere politico-istituzionale, mi riferisco ai costi della politica, alla riforma istituzionale, ad una serie di segnali che il Paese attende, tanto soprattutto quanto alle urgenze di carattere economico. Noi ci siamo su questo, ci siamo perché siamo convinti che si possa fare, assistiamo a un dibattito del Partito Democratico. Mi permetta però, prego. Anche la vicenda dell'elezione del Presidente della Repubblica dimostra che i nomi non sono indifferenti, cioè non è indifferente chi viene scelto a guidare un governo, così come viene chi viene scelto per il Quirinale. Assolutamente sì, ma le voglio ricordare alcuni nomi e alcuni atteggiamenti. Dopo le consultazioni al Quirinale, Berlusconi con grande responsabilità ha detto facciamo insieme un governo anche a guida Bersani. Nel mentre Bersani discuteva, dialogava, si confrontava in un modo sinceramente che avremmo preferito non vedere con il Movimento 5 Stelle, sono passati oltre 50 giorni. Per il Presidente della Repubblica abbiamo concordato su proposta del Partito Democratico un nome, Marini, che noi abbiamo votato in modo corretto e che non è stato votato dal Partito Democratico. Subito dopo si è passati da un nome concordato a un nome contro. E lo stesso Partito Democratico sul nome contro, cioè Prodi, che avrebbe segnato una spaccatura totale del Paese, non ha avuto la capacità di portare nemmeno i suoi voti. Oggi siamo in questa situazione, è chiaro che i nomi non sono indifferenti, però c'è un elemento decisivo che è preliminare rispetto ai nomi. Il Partito Democratico, il governo con il PDL, lo vuole fare o non lo vuole fare? E se lo vuole fare, vuol mettersi intorno a un tavolo a concordare i punti sui quali realizzare questo governo? Leggendo i giornali di oggi, se non voglio andare molto indietro, sinceramente il quadro è un quadro molto preoccupante, perché ci sono almeno 4-5 posizioni diverse e le assicuro che a quest'ora ho letto ancora 4-5 quotidiani, mi sono fermato qui, perché se dovessi continuare probabilmente troverò altre posizioni su altri quotidiani. Lo dico perché il governo, al di là del nome che deve rappresentarlo e guidarlo, ha un'esigenza, una volontà politica che trovi in Parlamento i numeri per andare avanti. Se noi dovessimo dare vita ad un governo che poi ogni giorno ha la sua pena in Parlamento rispetto a ciò che c'è da fare e alle divisioni o ai problemi per poter andare avanti. È chiaro che non è che non interessa a noi, non serve al Paese un governo di questo tipo. Questo è il tema di fronte al quale noi ci troviamo. Noi abbiamo un atteggiamento responsabile, ci siamo, se ci sono le condizioni, e siamo reduci anche, devo dire, da un periodo nel quale abbiamo ascoltato numerosi giudizi, talvolta anche abbastanza supponenti, sulla impossibilità di dialogo con noi, che diciamo, piaccia o non piaccia, al 25 di febbraio abbiamo rappresentato 10 milioni di italiani e penso che in questo momento qualcuno di più si senta rappresentato da Berlusconi. Allora, questa è la posizione molto chiara per quanto ci riguarda. È il PD che deve chiarire la sua posizione e dire con tempi anche rapidissimi al Presidente della Repubblica quali sono le sue intenzioni. Ci scrivete sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/9in.radio24, poi sentiremo anche qualche ascoltatore che ci ha telefonato. Fabrizio scrive: penso che a questo punto molti altri italiani si siano accorti che il solo scopo dei partiti politici è quello di rimanere attaccati alle poltrone. Il Movimento 5 Stelle dice ancora: alle prossime elezioni avrà il 60%. Ci scrive Irene: mi auguro che tra gli ospiti ci sia qualcuno, insomma, del Partito Democratico, insomma, della linea della segreteria, e ce l'abbiamo, segreteria, anche se dimissionario, che è Nico Stumpo. Qualcuno ci spieghi perché per 50 giorni si sono sdraiati a tappetino per fare un governo con il Movimento 5 Stelle e poi, quando si è presentato un vero piano d'intesa, ci abbiano letteralmente sputato sopra. Il resto è pura degenerata conseguenza. Stumpo, qua ci vuole una risposta. In questi 50 giorni avete l'impressione di molti che abbiate sbagliato tutto. Ma diciamo che non sono 50, sono un pochino di meno, ma non è quello, non è il tema, il numero dei giorni. Noi abbiamo subito dopo le elezioni detto che in questo paese il 25% degli italiani ha dato un voto ad un movimento, quello 5 Stelle, e non soltanto per un dispetto, perché c'è stata una sensazione diffusa di un malessere e che andava preso in considerazione. Abbiamo chiesto a quegli eletti, non a Grillo a Casaleggio, di assumersi la responsabilità davanti al Paese di provare a dare un governo che potesse dare anche risposte a quel tipo di febbre che si era manifestata. Sono state risposte, diciamo, alquanto certe. Io adesso ho sentito quello che ha scritto un ascoltatore, non ho mai trovato, nonostante tutte le volte noi abbiamo provato ad insistere nel cercare di trovare luoghi di discussione, abbiamo anche accettato una discussione libera in streaming, mentre loro, quando si riuniscono, cacciano via dal piano i giornalisti. Questo per essere chiari fino in fondo, perché pensavamo che fosse necessario togliere dal frigorifero, là dove l'hanno messo, un quarto del voto del popolo italiano. È chiaro che non si può stare all'infinito, c'eravamo in un incastro strano, il presidente Napolitano nella prima fase l'impossibilitato perché nel semestre bianco. Stumpo, però noi la storia di questi, diciamo, 50 giorni, più o meno 50 giorni, la conosciamo. Quello che le chiedo è se a questo punto un'ammissione di errore, insomma, dire abbiamo sbagliato, signori, abbiamo sbagliato, chiediamo scusa, insomma, no? Ma guardi, in politica si possono avere opinioni diverse. Cioè, lei pensa, so che non è il mio mestiere, è quello del suo, quello di fare domande, pensa che è opportuno tenere in frigorifero, anzi magari adesso di liberare il 25% del Stato italiano senza chiedergli di assumersi la responsabilità? Io credo di no. E infatti, quando prima dicevo che bisogna fare un governo che sappia parlare con tutto il Parlamento, mi riferivo anche a questo. È chiaro che quando qualcuno poi decide di non assumersi le responsabilità, in qualche modo le responsabilità se le assume, ovvero quelle di non assumersele. Noi ce le assumeremo. Abbiamo detto chiaramente, avremmo fatto diversamente anche in queste ore altrimenti, che è ora di assumersi una responsabilità completa davanti al Paese. Io non penso che bisogna dire da giusto o sbagliato, qui il tema è capire se si può fare qualcosa dove non c'è una parte che governa su un'altra, ma che insieme si prova a togliere il paese dalle secche in cui siamo finiti. Sentiamo Lauro che ci chiama da Padova, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Mi raccomando, sì, brevità, Lauro. Sì, io volevo solamente dire, io sono un padre di famiglia, ho tre bambini piccoli. Nel 2008 con la crisi sono rimasto da consulente informatico, sono andato a lavorare in una stalla e adesso lavoro nel mondo agricolo sostanzialmente. Ecco, io volevo dire solo questo, io sento continuamente gente, scusatemi, che non ha la più pallida idea di cosa significa oggi vivere in Italia. Ecco, io sento dobbiamo metterci d'accordo in Parlamento eccetera, ma voi dovete capire cosa la gente sta vivendo, non che cosa il Parlamento, io non so se riesco a spiegarmi. Non c'è, sì. Noi siamo in mezzo alla strada, facciamo mercati, sentiamo la gente, la disperazione della gente che non sa più con 3, 4, 5 euro che cosa comprare, se comprare il pane, se comprarsi un chilo di patate. Non so se riesco a spiegarmi. Cioè, Lauro si è spiegato benissimo, la questione è lo scollamento dal paese reale, che anche da questi microfoni abbiamo raccontato più volte, non a caso la voce che dà l'avvio a questa trasmissione di un ascoltatore che racconta proprio questo. Ennio ci chiama da Roma, buongiorno. Buongiorno, sono Ennio, 41 anni, e niente, sono un militante PD, ho cercato di portare Renzi alle primarie e tutto quanto. Vorrei dire al signore che sta lì del PD, che sono proprio come quelli che hanno sfasciato il partito, quelli come lui, hanno barato alle primarie in un modo vergognoso, uno. Secondo, adesso non ci sanno dire perché non è votabile uno come Rodotà, che è uno di noi, è uno di noi, e non è stato votabile, e non si capisce ancora perché. Si è fatto tutto questo inciucio contro quello che noi abbiamo dato come mandato elettorale, facendo sfasciare il PD da Berlusconi. E la cosa che mi dispiace è che anche Renzi si è prestato a questa cosa, perché gli unici che hanno votato contro questa infamia sono stati quelli di Barca. E adesso il signore sottoscritto lascia il PD e con molta sofferenza non partecipa alla vita politica, e se lo farà, lo farà col Movimento 5 Stelle. E mi dispiace tantissimo, perché io vengo dalla FGC. Grazie Ennio, grazie per la testimonianza che giro pari pari a stumpo. Ma mi dispiace che Ennio magari ha già scollegato, perché tutto posso accettare tranne che qualcuno abbia barato alle primarie e mi si venga a addossare una cosa del genere, perché è un atteggiamento veramente insopportabile. Lo dico senza timore per posizioni diverse tra chi fa l'ascoltatore e chi fa il dirigente del partito. Queste sono cose che non si possono accettare, anche perché in quelle giornate c'è stato il lavoro, la passione di centinaia di migliaia di persone. Detto questo, per tornare all'attività invece di queste ore, ha fatto una domanda semplice: perché non si è votato Rodotà? E la risposta è altrettanto semplice: perché, ammesso che fosse giusto politicamente, dice Fitto, e penso che l'avrebbe votato solo una parte Rodotà, non ci sarebbe stata una convergenza di tutti, e questa era già una delle ragioni che trovo in qualche modo difficili da realizzare, e perché per i numeri che si sono espressi in Parlamento, altrimenti non si riesce a vedere anche la complessità dell'elezione del Presidente della Repubblica. Rodotà semplicemente non avrebbe mai ottenuto 504 voti, ma prima di arrivare ai 504 voti sono partito da una considerazione, che è stato giusto ed opportuno arrivare su Napolitano perché ha consentito di ottenere una larghissima maggioranza che può consentire di fare qualcosa di più ampio, che prova a rispondere alle necessità del primo ascoltatore, che ha rappresentato una situazione vera di difficoltà delle famiglie italiane, di chi aveva un tipo di lavoro e ha avuto la fortuna di potersene inventare un altro, perché ce ne sono ancora tanti altri che non solo hanno perso il lavoro ma non hanno avuto la fortuna di trovarli. Allora bisogna in questo momento allargare un po' il fronte per capire come risolvere questi problemi. 9 in punto. Ed eccoci di nuovo all'800240024, ci ha chiamato anche Giuseppe da Barletta, buongiorno. Buongiorno a voi. Senta, io volevo dire, per quanto riguarda l'elezione di Giorgio Napolitano, almeno a mio avviso, per un mio parere, si sono indispettiti sui vari candidati alla Presidenza della Repubblica. Non trovandosi magari d'accordo sui vari candidati, hanno di nuovo rieletto Napolitano, che a me sembra poi... Oh, scusate se lo dico, ma mi sembra una comica, anche se altri paesi si sono congratulati, ma quando lasciano i microfoni magari ci ridono in faccia, come è già successo in precedenza. Poi un'altra cosa, per quanto riguarda Enrico Letta, per quanto riguarda Amato, Enrico Letta mi sembra in odore di nepotismo, perché tra zio e nipote mi pare che c'è una forte intesa. Amato non lo vedo come un... Non credo che se la scelta ricadrà su Enrico Letta, non credo che ricadrà per quel motivo, è comunque il vice segretario del PD. Secondo il parere del popolo, il popolo dicono che è ignorante, ma secondo me ha una buona intelligenza per sentirsi come dire, preso in giro, perché Enrico Letta secondo me non è candidabile e neanche Amato. Io vorrei una persona che da cuore, che sia in forte densità, come per sentire le lamentele del popolo. Almeno questo io spero che sia la persona adatta per la Presidenza del Consiglio. Amato, con i suoi 32.000 euro al mese, non so cosa ne faccia poi dello stipendio del Presidente del Consiglio. Grazie. Grazie Giuseppe, saluto Gennaro Migliore, capogruppo di SEL alla Camera, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Che cosa fate a questo punto? Che cosa farete? Vi sgancerete completamente dal PD? Cosa farete quando Napolitano vi presenterà, insomma, la persona incaricata di formare il governo? Ma noi l'abbiamo sempre detto e soprattutto lo abbiamo raccontato insieme a quello che resta, diciamo, del Partito Democratico, che non avremmo dovuto fare mai un accordo con Berlusconi. Quelli che hanno cambiato idea sono di fatto, non l'hanno deciso neanche con una riunione, l'hanno deciso 101 franchi tiratori che sono ancora anonimi. Aver ucciso l'ipotesi di una candidatura come quella di Romano Prodi è sicuramente stato in funzione di costruire questa alleanza con il PDL. Io non ho mai chiesto i voti per andare col PDL. Ma lei si è fatto un'idea migliore? Lei si è fatto un'idea di chi, glielo dico dall'esterno perché non so se Stumpo mi risponderà mai a questa domanda, poi magari gliela giriamo. Lei si è fatto un'idea di chi sono questi 100-101 poi? Ma guardi, come la carica, ovviamente... la famosa carica dei 101 che ha votato contro Prodi. Sì, solo che questa volta stavano dalla parte della strega cattiva, direi. Ma comunque io non faccio delle ipotesi, io sono certo che i primi che hanno parlato e che hanno detto, addirittura hanno cercato di dare la colpa a noi, è stato veramente ridicolo, ma per fortuna io, diciamo, avevo pensato a qualche contromisura dal capogruppo, e quindi sono quelli che avevano interesse a tirare giù Bersani e il gruppo dirigente, per cui ancora una volta abbiamo assistito anche loro, non solo loro, secondo me abbiamo assistito al fatto che è prevalsa una lotta interna di partito rispetto ad un'esigenza più grande per il paese. Questo è quello che più mi addolora, anche perché l'unico che veramente si è esposto con lealtà è per Luigi Bersani, e io penso che a lui bisogna riconoscere che è stato, sicuramente ci saranno stati anche errori, ma rispetto a quelli che si sono nascosti per fare cadere questa leadership è un gigante, diciamo. I 101 nani che si sono nascosti nelle pieghe del PD sono veramente, in questo momento io sarei molto interessato a sapere che fine hanno fatto. Raffaele Fitto, l'abbiamo un po' trascurata in questi ultimi minuti, ma come è giusto che sia così. Come lei sa, insomma, in questo momento le questioni centrali ovviamente riguardano il mondo del centrosinistra, della sinistra e del centrosinistra. Detto ciò, proprio la vorrei coinvolgere proprio a proposito di questo, perché io ho visto e ho letto di molti suoi colleghi di partito e non solo che esultavano per la condizione del PD. Beh, insomma, in realtà è preoccupante che il partito di maggioranza relativa, per quanto di poco, del famoso 0,3% che citate sempre, sia in queste condizioni adesso, anche per la tenuta del paese, o no? Guardi, noi non abbiamo avuto particolari esultanze in questo senso, e se ci sono state delle dichiarazioni diciamo positive rispetto alla situazione interna del PD, sono sicuramente nettamente inferiori e lontane da quelle che abbiamo ascoltato fino al mese di gennaio-febbraio scorso nei nostri confronti, a parti invertite, quando magari in una condizione di difficoltà apparente ci trovavamo noi. Questo lo dico per ricordare un po' anche le modalità con le quali ci si può trovare su posizioni totalmente opposte nel giro di poco tempo, ed è la politica che viviamo che ci porta a questo. Quindi io personalmente non guardo con particolare felicità alle condizioni di difficoltà degli altri. Mi preoccupa molto, perché se posso tornare a fare telefonate che ho ascoltato alla prima telefonata, quella del radioascoltatore che citava le difficoltà economiche di ogni giorno, io penso che quella dovrebbe essere la priorità. Ecco perché torno a ribadire le considerazioni che ho fatto nel mio primo intervento. Noi dobbiamo venire fuori subito da questa situazione e dobbiamo capire subito dal Partito Democratico se ci sono le condizioni per dare vita ad un governo che sia in grado di affrontare le questioni che interessano realmente i cittadini, oppure in alternativa, perché non mi sembra che ci sia un'alternativa, e chiarire e definire subito la questione ritornando al voto. Perché guardate, ascoltare le varie difficoltà e le varie posizioni ci fa comprendere che o su questo punto c'è una capacità da parte di qualcuno di assicurare una tenuta, oppure mi sembra che stiamo rischiando di far passare purtroppo altri giorni. E non voglio essere pignolo nel ricordarlo, se non sbaglio, invece temo di non sbagliare, siamo al 55° giorno senza un governo. Ora, noi tutti confidiamo nell'azione seria, responsabile e credibile del Capo dello Stato, al quale riconosciamo la capacità, la possibilità, il ruolo di poter dare un contributo decisivo in tal senso, e cerchiamo di capire anche come si possa sviluppare tutto questo, ma nel giro veramente di poche ore. Io penso che questa settimana non possa non trovare una soluzione definitiva in un senso o nell'altro, perché veramente la gente rischierebbe poi non solo di non capire, ma di essere alimentata sul fronte dell'antipolitica in modo maggiore. Ecco, noi non ci stiamo all'idea di partecipare o di assistere a questo tipo di situazione. Allora, dobbiamo uscirne, e uscirne rapidamente. Io ho rispetto per il dibattito che si è aperto all'interno della sinistra, non mi sembra che sia un dibattito di facile e rapida conclusione, si tratta di capire se all'interno di questo dibattito c'è la capacità e la volontà di garantire e realizzare un governo responsabile per il Paese. Mi scrive Giuliano, sempre sulla pagina Facebook, insomma, dillo, se anche tu sei del Movimento 5 Stelle. No, non sono del Movimento 5 Stelle, non sono di niente, sono un giornalista. Un ascoltatore ha fatto giustamente una domanda, dice: perché non avete votato Rodotà, che è uno dei vostri? È una domanda che abbiamo ritenuto di girare a stumpo, quindi non c'entra niente, insomma. È un nodo politico, è un nodo che ha portato della gente in piazza, a ragione o a torto non mi interessa, però è un nodo politico che probabilmente il Partito Democratico deve affrontare, soprattutto nei confronti della sua gente, evidentemente. Marcello ci chiama da Milano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Prego. Sì, tornerei su un punto, perché stumpo, a parte che più lo sento parlare più capisco perché il PD è in questa condizione, ma come è venuto in mente alla classe dirigente del PD di andare a cercare Napolitano come foglia di fico pur di fare l'elezione con Berlusconi? Ma chi gliel'ha detto di andarla a fare? Hanno fatto la campagna elettorale all'urlo di guerra, smacchiamo il giaguaro. E non mi dica stumpo la risposta che perché era un presidente condiviso, lei, perché ci vuole un presidente condiviso. Marcello, perché scusi, Marcello, si fermi! Lei è un elettore PD, suppongo. Supporrei di sì. Ok, no, lo sento da quanto si accalora, prego, finisca. Ma la sua risposta è stata perché non era condiviso. Prodi ha provato a votarsi, non era condiviso. E comunque, con tre partiti di questo momento che fanno la parte del leone in Parlamento, è chiaro che era un'elezione 2-3. Allora, il 2-3, tu lo cerchi con Berlusconi, con lo zio di Rubi, o lo cerchi con Rodotà e col Movimento 5 Stelle, a cui dopo le elezioni gli ha detto: abbiamo capito la lezione, ci serve il cambiamento. Ah, l'hanno capita la lezione, vedrai la prossima elezione, caro Stumpo, vi lasciamo tutti a casa come quelli che hanno risposto alla Finocchiaro. Chi sono questi signori? Sono quelli che vi ci hanno mandati in Parlamento, sono quelli noi che vi ci abbiamo mandati in Parlamento e non vi ci manderemo più. Grazie dello spazio, buona giornata. Grazie Marcello, buongiorno. Sentiamo anche Francesco che ci chiama da Roma, buongiorno Francesco. Buongiorno, guardi, io ho votato PD e sono di ispirazione cristiana, vengo dalla parte cristiana del PD, eppure io avrei voluto l'accordo con Grillo, però pochi dicono che Grillo non si è fatto capire, guardi, capisco, hanno fatto gli errori i dirigenti del PD, ma Grillo non ha fatto, forse neanche lui sapeva bene cosa voleva, e infatti ieri, leggendolo bene il discorso di Grillo, Grillo ieri ha pianto. Infatti io l'ho vista così, Grillo ha pianto, adesso ha capito che col partito non può parlare con gli altri partiti per accordi alti, non può parlare come si parla in piazza prima delle elezioni. Ha proposto Rodotà come un macigno, doveva trovare un accordo alto per Rodotà, non doveva imporlo. Adesso però si può ancora ricucire, si può fare un governo mettendo Rodotà alle riforme costituzionali come ministro, si può fare un accordo alto e nobile, perché non si prova anche questa strada? Grazie Francesco, noi ci prendiamo una pausa per la viabilità e poi a questo punto naturalmente dovrò chiamare di nuovo in causa Stumpo, perché insomma ha sentito Stumpo un po' lo sfogo dell'ascoltatore, no? L'ho sentito lo sfogo e ne immaginavo e ne immagino e ne conosco tanti così, sennò altrimenti diciamo avrei una voce squillante e maggiore anch'io, cioè, se qualcuno pensa che in queste giornate ci si sta divertendo sbaglia, c'è una sensazione oggettiva di malessere che percepiamo, che c'ho io in primis, ma bisogna assumersi, quando si fa, io definisco così questo lavoro, per un certo punto anche decide di assumersi delle responsabilità. Capisco però perfettamente tutti i malesseri che ci sono e che attraversano il nostro popolo, il vostro popolo. 9 in punto. Nico Stumpo prevede che il partito si possa spaccare già all'atto del voto di fiducia per il nuovo governo? Mi sembra evidente, diciamo, non sarà un passaggio facilissimo. Non sarà un passaggio facile. È eufemistico, la sento eufemistico. Sì, no, perché cioè, più è difficile una situazione, più la si esaspera e peggio diventa. Allora, bisogna anche avere un po' un atteggiamento, cioè, rispettoso, e bisogna davvero capire tutto il disagio che sta tagliando in modo trasversale il Partito Democratico. Io più che dire quello che mi auspico, che già da questa direzione che faremo nelle prossime ore, ormai si può dire, si possa fare un dibattito che provi a rimettere insieme il Partito Democratico, perché ora è chiaro che quando si arriva ad un punto noi stiamo sottovalutando questa non la mandate in streaming, però, perché sennò c'è sempre noi stiamo sottovalutando una cosa, dico. E quando si arriva alle dimissioni di una persona come Bersani, che oltre ad essere il segretario del Partito Democratico è una persona prima ancora, perché la persona c'era prima e ci sarà dopo, oltre ad esserci il politico prima e il politico dopo delle sue dimissioni, vuol dire che c'è stato qualcosa di molto profondo, che quei due voti in Parlamento hanno rappresentato una rottura davvero drammatica, una lacerazione drammatica per quello che è successo. È chiaro che bisognerà capire le ragioni del Partito Democratico. Io non sono uno di quelli che fa le facili letture, adesso basta ripartire da qua o ritornare di là, cioè bisogna capire le ragioni della. C'è chi dice che vanno respinte le dimissioni di Bersani, lei è d'accordo? Ma essendo tra virgolette parte in causa, non perché sono membro della segreteria, ma perché credo di essere una delle persone che, almeno così mi sento, di avere una stima profonda di Bersani, io non, forse non so se in tanti altri oltre a me sono andati prima a dire che non bisognava darle, ma la risposta che mi ha dato Bersani è stata incredibile, cioè, mi ha spiegato una cosa che io condivido, cioè disse che in politica quando si arriva alle dimissioni vuol dire che siamo veramente arrivati molto oltre, ma che c'è un tema oltre il quale è difficile andare, che è il rispetto delle persone, la dignità. Ora, chi vuole respingere le dimissioni di Bersani lo dovrà motivare molto bene, non si può fare soltanto un lavaggio di facciata e non può e nessuno può pensare che Bersani le accetti soltanto perché qualcuno le chiede. È naturale che un fatto, lo dicevo prima, molto molto duro quello che abbiamo vissuto, ci sarà bisogno di una discussione vera, seria, profonda per ripartire e per essere utili al Paese, perché noi dobbiamo ricordarci di una cosa, che mentre le persone poi alla fine, a partire da me, passano, nel Paese c'è bisogno di provare a dare risposte. Brevemente, la mandate in streaming o no sta riunione? Non ho partecipato in queste giornate di decisioni. Ora, ne possiamo fare molte. Sarebbe bellissimo per i giornalisti. Ma sarebbe un errore per voi, perché poi non escono fuori le cose vere, no? Alla fine. Sono sarcastico, lo guardo dall'altra parte, diciamo. Voglio passare a Gennaro Migliore, che io prima ho interrotto mentre lui mi stava rispondendo, in realtà facendogli un'altra domanda. E quindi... Ti ripongo quella che ho fatto prima. A questo punto, questo governo del presidente, vi preparate ad appoggiarlo o ormai siete sganciati anche dal Partito Democratico, dalle decisioni del Partito Democratico? Ammesso poi che siano univoche, perché dato che abbiamo visto come è andata con Prodi, magari insomma si decide per la fiducia e poi la fiducia il governo del presidente non la ottiene, chissà. Insomma... No, guardi, allora, noi innanzitutto la fiducia è palese, quindi si vedranno le persone che avranno voglia di sostenere un governo con Silvio Berlusconi. Noi no, noi non lo sosterremo e questo sarà un passaggio molto importante, perché riteniamo che ci sia nel Paese una possibilità, ci sarebbe stata una possibilità di avere un governo con un sostegno, come era stato peraltro anche detto da parte del Movimento 5 Stelle. Questo passaggio invece non sarà in questi termini, sarà una rimessa al centro di Berlusconi, e noi sappiamo che su tutta una serie di urgenze che vanno dal mercato del lavoro alla questione drammatica della disoccupazione, degli ammortizzatori sociali, non ci sarà nessuna risposta. Poi, siccome avevamo scritto durante nel nostro programma della carta d'intenti, che era il primo provvedimento sarebbe stato quello di dare la cittadinanza ai figli dei migranti, mi pare difficile che un governo del genere lo possa fare, e così mille altre cose che diranno che questo non è il governo del cambiamento, e quindi noi stiamo lavorando perché ci possa essere fin da subito un progetto per una sinistra al governo autonomamente, da quelli con che Barca, sono... con Barca, con un pezzo del PD presumibilmente, quella che qualcuno chiama Big Sell, la grande sella. Adesso è un gioco, naturalmente, però... No, questo è un gioco e quindi diciamo lo prendo come tale. Noi vogliamo mettere in comunicazione tutti i pezzi, noi non vogliamo che ci siano campagne acquisti, cose del genere, però certo dentro il Partito Democratico spero che prevalga la posizione di chi ha sempre detto mai con Berlusconi, e questo io spero che accada prima che le cose precipitino, perché altrimenti sarebbe, noi non vogliamo speculare sulla difficoltà degli altri e non permettiamo a nessuno di dire che noi abbiamo per esempio violato la carta d'intenti che diceva che solo su atti e provvedimenti di governo avremmo dovuto raggiungere diciamo un consenso sulla base dei gruppi riuniti. Questo lo voglio dire perché mi è sembrato troppo facile usare un'argomentazione del genere con persone come noi che sono trasparenti e leali, e non si è andati, lo vorrei chiedere anche a Stumpo, a chiedere fino in fondo chi erano quei 101 che hanno effettivamente sì tradito, ma in nome di un altro progetto politico, quello di andare a governare con Berlusconi. Stumpo, mi riesce in 10 secondi a dire chi è stato, chi ha tradito? So che si è dimesso Bersani su quel voto, se li conoscessi e se ne avessi il sentore a uno, diciamo, forse se ne potrebbe discutere in modo diverso. Non l'ho esaltato io i franchi tiratori in questi giorni. Grazie a tutti, grazie a Nico Stumpo del PD, Raffaele Fitto. detto del PDL Gennaro Migliore di Sel per essere stati con noi. Chiedo scusa a Domenico da Cesena e Sergio da Torino, che a tutti gli altri che erano in linea e che non sono riuscito a far intervenire, a tutti quelli che hanno scritto e che insomma non sono, dei quali non sono riuscito a riferire i messaggi. Mi trovate su Twitter Simone Spezia, c'è la nostra pagina Facebook sulla quale prosegue la discussione. Grazie a Carmelo Lauricella in regia, Laura Fagin in assistenza, le ragazze del centralino, non ho qua i nomi e mi perdoneranno. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 9. Ricordati! Mancano 69 giorni all'aumento dell'IVA. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano e dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. Radio 24. La passione si sente.